Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Non tutti gli artisti riescono sempre a trovare la strada giusta all'inizio della loro carriera. Alcuni sentono che devono esprimersi in ambito artistico, ma sono confusi, non sanno quale forma creativa può far emergere meglio le loro caratteristiche. Altri invece non hanno il coraggio di scavare dentro di sé per tirare fuori qualcosa di veramente originale. Pupi Avati ha sempre pensato di volere diventare un musicista, mentre dietro a Mickey Mix, insignificante cantante dalla personalità annacquata degli anni 90, difficilmente si sarebbe potuto scorgere il graffiante e originale rapper conosciuto oggi come Caparezza. Ma se è vero che tutto diventa esperienza, la maggior parte degli artisti sanno che quelle difficoltà non sono altro che occasioni per migliorarsi. Anche l'artista di cui vi vogliamo parlare oggi ha iniziato così, zoppicando un po', fallendo diverse prove importanti, provando svariate esperienze nel mondo dello spettacolo, prima di riuscire a trovare la sua strada, prima di capire che doveva cantare. Il suo nome è Fiorella Mannoia. Di sicuro Fiorella lo spettacolo ce l'ha nel sangue, quando nel 54 nasce a Roma. È figlia dello stuntman romano Luigi Mannoia, e mentre suo fratello Maurizio e sua sorella Patrizia iniziano presto a seguire le orme del padre, lei di fare la stunt girl non vuole proprio saperne. È curiosa, intelligente, sensibile. Non vuole precludersi delle possibilità, non vuole trovarselo addosso un mestiere e darlo per scontato. Vuole poterlo scegliere nel mucchio. Ora è troppo piccola per pensare a cosa fare da grande. Sa solo che ama la musica, lo studio e ha una grande passione, i cavalli. Ma la vita spesso riesce a sorprenderci. Così quando Fiorella è poco più che adolescente, suo padre scopre che a Cinecittà non riescono a trovare una controfigura che sappia andare bene a cavallo per un'attrice piccola e minuta, Lucia Mannucci. Fiorella è piccola perché è ancora molto giovane, è snella e sa andare meravigliosamente a cavallo. Insomma, è perfetta. In realtà non ho cominciato a fare quello strano lavoro di controfigura, diciamo. Io andavo bene a cavallo, tutta la mia famiglia appassionata di cavalli. Io ero piccola, ero ragazzina, per cui, e Lucia Mannucci era piccola e minuta, non potevano vestire un uomo con i panni suoi. Hanno chiesto di farlo, se lo volevo fare io. E io ho detto di sì, se doveva andare a cavallo, figurati, io ero ben contenta. E poi mi ricordo che venne il direttore di produzione e quando seppe che ero minorenne mi fece scendere a cavallo e mi cacciò via. Certo che quei primi soldi guadagnati le fanno assaporare un grande senso di indipendenza. In più l'esperienza è stata divertente, molto divertente, visto che ha dovuto fare ciò che lei ama di più oltre alla sua musica, andare a cavallo. Allora perché non ripeterla una volta raggiunta l'età minima per lavorare? Si ritrova così a fare spesso la controfigura, soprattutto per le scene a cavallo e la stunt girl per attrici, a volte anche molto famose, come Monica Vitti, Candice Bergen. Sul set è responsabile, affidabile, sicura di sé e si guadagna presto la fiducia dei migliori registi. Ma di certo non pensa a quello come a un vero lavoro, anche perché in quegli anni inizia a coltivare il suo vero sogno. Fare musica, vivere di quello. E lei certo non è una persona che si rassegna facilmente. Meglio sognare che rassegnarsi, rassegnati mai. E siccome penso che abbiamo un'unica arma, che è la nostra voce, facciamo sentire la nostra voce. Nel 1968 si presenta a Castrocaro con una canzone di Celentano. Non sarà una prestazione eccellente, infatti non vincerà, ma sarà sufficiente per ottenere il suo primo contratto con una casa discografica, la Carish. Sembra una bella occasione per Fiorella, invece il 45 giri si rivela un fiasco. Lei ha una bella voce, però ha qualcosa che non convince fino in fondo e non riesce a far presa sul pubblico. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Da quel momento e per 10 lunghi anni passa da una casa discografica a un'altra. Hit, RCA, Ricordi. Si sforza di cambiare look, pubblica diversi 45 giri senza mai però fare centro. Il giudizio dei professionisti che incontra è più o meno sempre lo stesso. La ragazza ha talento, ma la personalità non è ancora così definita. Forse è troppo giovane o forse è mediocre come artista. Quando finisce il contratto con la Ricordi, Fiorella è stanca e amareggiata. Certo che c'è un'altra casa discografica, la CGD, pronta a subentrare, ma lei non è più così sicura che la musica sia la sua strada. È giovane e sa che ancora è in tempo per riciclarsi in un nuovo lavoro ed è consapevole che non sarà sempre così. È molto delusa, ma soprattutto è arrabbiata con se stessa perché non riesce a tirar fuori ciò che sente dentro, ciò che sa di avere. In Italia poi, all'inizio degli anni Ottanta, la disco music inizia a imporsi seriamente nel panorama musicale e cantare in inglese diventa quasi una moda. La canzone d'autore resiste, ma è sempre di più appannaggio maschile. La strada di Fiorella diventa ancora di più in salita. Non so cosa avrei fatto se non avessi fatto la cantante, perché ho cominciato talmente tanto presto che il mio cammino era segnato. Non avrei potuto fare che questo. Mi sarebbe piaciuto insegnare. Ma se il destino ha scelto per noi una strada, nel momento in cui ci scoraggiamo e pensiamo di abbandonarla, spesso un incontro ci viene in aiuto. La CGD, casa discografica che le ha recentemente offerto un contratto, la informa che un cantautore dalla voce potente e dalla scrittura aggressiva l'avrebbe scelta per interpretare un brano con un contenuto molto impegnativo. Il pezzo si chiama Pescatore e lui è Pierangelo Bertoli. Dimmi, dimmi, mio signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore, la mia pelle bianca e profumata, ha bisogno di carezze ancora. Bertoli è un cantautore particolarissimo, sempre molto deciso nelle sue scelte e diretto nei rapporti umani. Pierangelo non riesce proprio a fare la star. Viene dall'Emilia, terra di gente nostrana e dai valori solidi. Che poi più che per la musica è per dire delle cose. Cioè, io ho imparato a suonare la chitarra e a fare anche dei motivi per cantarci sopra delle parole. Mi piace cantare e mi piace raccontare, quindi ho scritto le canzoni, penso, per quello. E poi perché non mi piacevano le canzoni che in genere si sentono in giro, insomma, non dicono mai niente. Non si è mai arreso nella vita e non ha mai rinunciato ai suoi sogni. Non si è mai pianto addosso neanche quando una malattia lo ha costretto ancora bambino su una sedia a rotelle. Si è avvicinato alla musica non per smanie di protagonismo, quanto per un'urgenza di dire delle cose attraverso la musica, come ci spiega lui stesso. A muso duro, per lui, non è solo il titolo di un suo grandissimo successo, è soprattutto una filosofia di vita. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Quando Pierangelo sente la voce di Fiorella, riconosce in quella ragazza giovane dai capelli rossi e gli occhi azzurri la stessa urgenza di dire delle cose che ha lui e la vuole conoscere. Non si è sbagliato Pierangelo, perché quel testo Fiorella se lo sente cucito addosso. Si identifica nel dolore silenzioso della donna della canzone che ha bisogno di carezze ancora, nel suo amore, nella sua paura e anche nella sua debolezza. Fiorella questa volta fa centro e il brano spacca, come si dice in gergo, facendola diventare una straordinaria interprete. Ce lo ricorda Franco Simone. Però mi resi conto del potere di penetrazione proprio che aveva da superstar proprio, quando la ascoltai con tuo padre cantare Il Pescatore. Lì mi resi conto questo pathos che aveva, questa capacità drammatica naturale che ha lei. Lei non ha bisogno di sforzarsi. L'incontro con il grande cantautore emiliano non le dà solo un'improvvisa notorietà, ma la scuote profondamente. Lui è un artista coraggioso, è un uomo generoso. Non ha paura di esporsi, sa guardarsi dentro e consegnare al pubblico sfumature profonde di sé. Questo è una grande provocazione per Fiorella, che ora capisce quanto sia stata fino a quel momento timorosa ed egoista con il pubblico. La paura di essere tradita, di esporsi troppo e di diventare così vulnerabile la faceva essere parsimoniosa e controllata. Troppo perché il pubblico ne venisse veramente sorpreso. Ma dopo aver lavorato con Pierangelo, Fiorella si sente pronta a rischiare di più. Non sa se ci riuscirà, ma di certo sa che non potrà più accontentarsi. Anche lei vuole essere un artista così. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Se l'esperienza con Bertoli finisce, quell'incontro le lascia addosso un segno indelebile. Fiorella, forte di questa nuova consapevolezza e determinata come sempre, inizia a cercare brani musicali che la raccontino veramente e nuovi look che la rappresentino. A Sanremo si presenta vestita da rocker di strada in perfetto stile anni Ottanta a cantare una canzone aggressiva e rabbiosa, Caffè Nero Bollente. Ancora la strada non è quella giusta per lei, ma almeno si sta avvicinando. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. È il 1984 e Fiorella ha già 30 anni. Sa che sta per iniziare il periodo della maturità e non si è mai sentita così padrona delle proprie scelte e consapevole della pienezza conquistata. Vuole condividerla col pubblico che ama. Così per l'edizione di quell'anno di Sanremo, Fiorella vuole un pezzo speciale. Gli autori Renato Pareti e Maurizio Piccoli gli propongono un brano molto difficile, impegnato, azzardato per la kermessa canora ligure. A lei piace parecchio, anche se è diversissimo da tutto ciò che ha cantato fino a quel momento. Ancora non sa se sarà all'altezza di quel testo, ma di sicuro sa che non può rifiutare la sfida. Sul palco dell'Ariston Fiorella è magnetica, intensa. I capelli rossi e ricci fanno un meraviglioso contrasto con l'abito bianco. Le parole della canzone sono graffianti e la sua voce tagliente. Il brano si intitola Come si cambia. Per amore, come si cambia per non soffrire? Come si cambia per ricominciare? Io non ho avuto un successo immediato, è stata una costruzione lenta. E per i primi anni ho cercato una strada e non la trovavo. E quando ho cantato Come si cambia, ho capito, ho guardato la gente e ho visto che la gente si emozionava. Io ho detto, vuoi vedere che se sento emozione riesco a trasmetterla? Con Come si cambia Fiorella non sbaglia. Da quel momento in poi inizia a essere molto selettiva e rigorosa nella scelta dei brani da interpretare, non tanto per rincorrere il successo, quanto per non voler rinunciare alla sensazione di libertà provata quando ha interpretato un brano che la rappresentava così tanto. Come si cambia è stato lo spartiacque tra un brancolare nel buio, tentando vari generi e capire qual era la direzione che dovevo prendere. Io ho seguito la mia voce, è lei che mi ha condotto. Quello raggiunto era un punto dal quale sarebbe stato difficile poi tornare indietro. Fiorella diventa intransigente, determinata ed estremamente esigente con se stessa e con gli altri. Caratteristiche queste che non perderà più. Io credo nel corso degli anni, a un certo punto del mio lavoro, della mia carriera, ho cominciato a dire una serie di no, ho cominciato a scegliere le canzoni che appunto credevo che mi potessero rappresentare, canzoni che riuscivo a interpretare, scelta che poi è stata una scelta da un certo punto in poi rigorosa, ha fatto sì che si fidassero di me, tanto da regalarmi le loro canzoni. Artisti che cui non sono così soliti regalare le canzoni agli altri. Inizia dunque a cercare testi e canzoni che sente di poter indossare come una seconda pelle. Certo, lei è sempre stata aperta alle collaborazioni, ma ora sa che non è solo una tendenza del carattere, è anche una necessità. Non si è ancora messa alla prova come autrice, quindi ha bisogno di affidarsi ad altri professionisti. Del resto in questo mestiere le sinergie sono importantissime. Mi ricordo il tour con De Gregori, Ron e Pino Daniele come una cosa molto bella. Io non mi tiro mai indietro quando mi chiedono di collaborare, perché credo che questo mestiere viva di collaborazioni, viva di scambi, viva di esperienze. Abbiamo bisogno, almeno io parlo per me, ho bisogno di stimoli, ho bisogno di sentire quello che succede, sentire come lavorano gli altri, ho bisogno, per non annoiarmi, di stimoli continui. Raccontare la vita, immortalare le emozioni, scavare negli stati d'animo, ma soprattutto incontrare le persone. Ecco cosa le è sempre interessato veramente. Forse è anche per questo che Fiorella si è trovata in sintonia col grande cantautore emiliano Pierangelo Bertoli. In fin dei conti, la pensano allo stesso modo. Per me la vita è interessante, è curiosa, continuamente, ma per me la vita sono le persone, soprattutto sono gli uomini. Da quel momento il palco diventa tutta la vita per la cantante romana. Il contatto con il pubblico la galvanizza e la ricarica. Donarsi con generosità, senza risparmiarsi, diventa un punto fermo. Niente le dà quell'adrenalina e quella soddisfazione. Al punto che quando è in sala si deve immaginare di avere gente davanti ad ascoltarla per emozionarsi. Non ho paura della gente. Anzi, mi piace il contatto diretto. Ho lacrime da donna, cosmetiche severe e lacrime da uomo. E a me piace stare a contatto con le persone. Mi piacciono gli esseri umani. Mi piace mischiarmi con la gente, non ho mai fatto una vita ritirata e questo forse anche si vede, ecco, perché mi avvicinano con un'aria di amica della porta accanto e questo non mi dispiace, anzi mi gratifica. A questo punto la carriera di Fiorella Mannoia sembra finalmente prendere la piega giusta. Lei sul palco ha una forza travolgente e il rapporto speciale che instaura col pubblico la rende unica. I teatri, le piazze, gli auditorium si riempiono e sono parecchi gli autori che le sottopongono dei brani, ma lei è esigente, molto esigente, e non riesce a trovare niente che la convinca. Ascolta tantissimi provini di autori esordienti, cerca tra quelli di autori consacrati, ma niente sembra entusiasmarla. Passano alcuni anni. Il produttore inizia a spazientirsi e anche gli ammiratori accusano segni di stanchezza. Non basta un pezzo a fare un artista, il talento va confermato. Fiorella lo sa. Sa che se aspetta troppo il pubblico potrebbe dimenticarla, ma lei non vuole tradire ciò che ha intuito e preferisce rischiare di farsi dimenticare piuttosto che sbagliare brano e cantare qualcosa che non le appartiene. Fra poco vi racconteremo se questa scelta si rivelerà la migliore. I magnifici destini. Oggi ai Magnifici Destini vi stiamo raccontando la storia di Fiorella Mannoia, cantante italiana che si è fatta notare per due interpretazioni emozionanti. Il Pescatore, cantata con Pierangelo Bertoli, e Come si cambia, presentata a Sanremo nell'84. Mentre Fiorella cerca con passione un nuovo brano che la confermi e la consacri, il paese sta vivendo un periodo di euforica sovrabbondanza. Gli anni 80, con le loro illusioni, regalano sogni. Sono lontani gli anni della contestazione femminile e i pari diritti sembrano ormai un concetto accettato dall'opinione pubblica. Viene esaltata l'idea di una donna intelligente, consapevole, determinata e aggressiva che tiene testa agli uomini e per questo ambisce a posti dirigenziali sia in politica che in azienda. Fiorella è sicuramente figlia del proprio tempo, ma a modo suo. Innanzitutto non ho mai creduto che l'arte, tra virgolette, se quella che faccio si può chiamare arte, non so, insomma, chiamiamola arte, debba essere staccata dalla politica. L'arte è politica. A Fiorella le proposte non mancano di certo, ma non sa decidersi. Molti autori le propongono canzoni che raccontano di amori struggenti, mancati, persi, di attimi resi speciali da incontri particolari, di stati d'animo, ma nessuna sembra farla innamorare. Non ci sta a chiudere la donna in un cliché, ci sono altri aspetti da tenere in considerazione. Scelgo le canzoni soltanto se posso immaginare di averle scritte, mi devono emozionare. Una volta che io canto una canzone, la canto perché la sento, perché mi ci identifico, non potrei fare altrimenti, non riuscirei a cantare. Fino a che, nelle tante proposte, scova un brano. Sembra scritto per lei, anzi, sembra scritto da lei, e invece è scritto da un uomo. Ti diremo ancora un altro sì. Le donne di tutta Italia si identificano, gli uomini se ne innamorano. L'autore è Enrico Ruggeri, il brano è Quello che le donne non dicono e racconta in controtendenza col periodo un mondo al femminile capace di trovare forza nella delicatezza. Le donne della canzone, dolcemente complicate, sono capaci di fare tesoro della loro fragilità. Non abdicano alla femminilità per diventare brutte copie di uomini, piuttosto guardano con un sorriso benevolo alla loro delicatezza, ben consapevoli che la loro è una diversa abilità. Non tradiscono anche se cambia il vento. Se i momenti non sono buoni, non abbandonano, né fanno pesare a chi amano le notti passate in bianco. Sanno ricostruire sui terreni bruciati, su pelli scottate da poco, su dolori segreti, su umiliazioni disegnate dalla storia, all'inseguimento di un soffio vitale che genera e rigenera. Figlie, sorelle, madri, mogli, nonne, amiche, maestre. Bisogna avere uno spirito osservativo ben spiccato per scrivere una canzone sulle donne in questo modo, mettendosi dalla parte della donna, fare una soggettiva della donna. Sono rimasta... a volte gli uomini ti lasciano senza fiato. Questo parlare a nome delle donne con questa sensibilità è stupefacente. Forse mi sono anche chiesta se una donna avrebbe mai avuto la sfacciataggine di dire posso dire la mia sugli uomini. Forse no. Enrico Ruggeri è un musicista a tutto tondo. Suona chitarra, basso, tastiere. E anche se le qualità vocali non sono strabilianti, è dotato di una particolare sensibilità. Nei suoi testi c'è una poesia immediata e la sua musica è suggestiva. Inizia giovanissimo formando con gli amici diverse band musicali per farsi le ossa. Prima gli Yosafat, poi gli Champagne Molotov e ancora i Decibel. Prova nei garage dei genitori e i palcoscenici su cui si esibisce non sono certo eccellenti. Ma pian piano riesce a farsi notare dai discografici che in quel periodo sono particolarmente affamati di musicisti talentuosi e a incidere con la Spaghetti Records il suo primo album. Ciuffo nero alla Elvis, occhiali da miope con l'inconfondibile montatura bianca e spiccato accento del nord, propone un genere che lui stesso definisce pop punk. Vuoi solo le cose che non hai, parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi, pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Appena però approda ai palcoscenici più importanti, come quello di Sanremo con il brano Contessa, il successo è notevole. Ed è a questo punto che capisce di poter dare molto più nella canzone d'autore, anche se l'anima rock non verrà mai rinnegata. Nel 1984 Ruggeri torna a Sanremo con il brano Nuovo Swing, che segna la svolta verso uno stile che evoca gli chansonnier francesi. Sono gli anni della maturità artistica e i successi non tardano ad arrivare. Polvere, Mare d'inverno, che è una grandissima Loredana Bertè, porterà al successo, ma anche tanto, tanto lavoro all'estero, con canzoni per Denaro e Diana Est. Nel 1988 si presenta a Sanremo in trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi, con il brano Si può dare di più, vincendo la 37esima edizione. Nella stessa occasione Fiorella porterà sul palco Quello che le donne non dicono, che porta la firma di Ruggeri e si aggiudicherà per la prima volta l'ambitissimo premio della critica. C'è stato un incontro con Enrico Ruggeri, con quella che è stata poi la mia canzone simbolo, no? Che è Quello che le donne non dicono. Ovunque io abbia cantato questa canzone, la reazione della gente è sempre la stessa. Cantano. Fiorella ed Enrico ce l'hanno fatta. Entrambi hanno saputo scegliere e aspettare senza cedere a generi più immediati e successi più facili. Non hanno tradito né se stessi né il loro pubblico. Fiorella poi è stata particolarmente caparbia. Non si è mai arresa né demoralizzata. Ha cercato l'incontro giusto con la persona giusta fino a che è arrivato il brano perfetto. E lei è stata premiata. Il pubblico ora la ama e lei non lo deluderà. Ivano Fossati le proporrà Le notti di maggio, con cui vincerà un altro premio della critica e successivamente Treni a vapore. Massimo Bubola firmerà Il cielo d'Irlanda, mentre il successo Sally è di Vasco Rossi. Sono rimasta più o meno la stessa, perché per fare delle scelte ci vuole dell'incoscienza, perché non si può fare questo lavoro se non si è un po' folli, diciamo che una dose di sana pazzia ci vuole. I magnifici. Magnifici Destini. Oggi ai Magnifici Destini vi stiamo raccontando la storia di un'artista particolarmente significativa nel paesaggio musicale italiano. Dopo un inizio faticoso, costruisce una carriera brillante che vede tre svolte decisive. L'incontro con il cantautore Pierangelo Bertoli, che la vuole per duettare insieme nella canzone Pescatore. L'interpretazione di Come si cambia, con una nuova consapevolezza artistica e umana. La collaborazione con Enrico Ruggeri, che la porterà a cantare uno dei suoi più grandi successi, Quello che le donne non dicono. Ma la sua vita e la sua carriera sono costellate da incontri importanti. Artista raffinata ed elegante, sul palco è affascinante e magnetica. La voce è sensuale, la sua immagine è inconfondibile. Fiorella è sempre stata aperta alle collaborazioni, non solo per necessità, essendo prima di tutto un interprete, quanto proprio perché crede che attraverso le sinergie nascano i lavori migliori. Avevo fatto un'esperienza nel disco precedente, quando ci siamo ritrovati tutti in una casa di campagna, c'era una grande sala prova, in questa sala prova abbiamo buttato giù le idee, abbiamo dato la possibilità anche ai musicisti un po' di esprimere. Le tue parole sono mine, le sento esplodere in cortile, al posto delle margherite ora ci sono cariche esplosive. Due lunghe romantiche vite divise da queste rime. Le collaborazioni saranno un segno distintivo di tutta la sua carriera. Scriveranno per lei artisti come Ivano Fossati, Luciano Ligabue, Caetano Veloso, Samuele Bersani. Canterà con tutti i più grandi, da De Gregori a Ron, da Pino Daniele a Franco Battiato. Agli inizi del secolo, la TV propone format importati dall'America e da qualche anno la moda dei reality dilaga. Gente di tutti i tipi e di tutte le età si fa mettere in discussione da esperti nei più svariati settori, dalla cucina alla gestione dei figli, dalle abitudini alimentari al ballo di sala. Anche il mondo dello spettacolo cerca nuovi protagonisti in questo modo. Nascono trasmissioni come Amici o X Factor, dove molti giovani, in cambio di una promessa di successo, si sottopongono al giudizio spietato del pubblico e dei professionisti. Proprio su uno di questi palcoscenici viene chiamata a partecipare Fiorella Mannoia. Lei accetta, non solo per la sua naturale propensione a dire di sì alla vita, ma anche per curiosità. Vuole sentire l'aria che si respira dentro queste fantomatiche case dove i ragazzi si chiudono anche a lungo per imparare il mestiere. Un pomeriggio, mentre i ragazzi sono in sala prove, Fiorella, a sorpresa, entra nella casa. Lo stupore e l'eccitazione sono grandi. C'è chi applaude, chi guarda sorridendo, chi si commuove. Li ho trovati giustamente impauriti, perché loro hanno un compito un po' difficile, no? Perché le canzoni non se le scelgono, ma gli vengono assegnate. E se sei fortunato di trovare la canzone in cui ti senti a tuo agio, e quando non ti senti a tuo agio è arduo, io lo capisco, perché sarei in difficoltà anch'io. Tra di loro c'è una ragazza che accanto al pianoforte sta provando proprio quello che le donne non dicono. È giovane, ha i capelli rossi e la voce scura. Il suo sorriso è contagioso e i modi umili. Sarà una delle nuove scoperte del reality. Il suo nome è Veronica Scopelliti, ma per tutti sarà Noemi. Quando Fiorella entra a sorpresa negli studi, lei si emoziona talmente tanto che non riesce a continuare a cantare e la salivazione le si azzera. A Fiorella fa quasi tenerezza. Le sorride in quel suo modo comprensivo, incoraggiante, come una sorella maggiore. Tra le due nasce un feeling istintivo. Da lì è cominciato la nostra amicizia, perché ci sentiamo quando possiamo, ci sentiamo spesso, nel DVD è presente, mi piace la sua voce, ci siamo trovate anche vicine, perché mi ricorda un po' come ero io alla sua età. Un bel rapporto, mi piace anche essere utile a una cantante di una generazione diversa dalla mia, che inizia ad affacciarsi a questo difficile mestiere. Per questo, quando pochi mesi dopo la casa discografica propone a Noemi un duetto, lei pensa subito a Fiorella. Sa che sta puntando in alto, ma preferisce sentirsi rifiutare la collaborazione piuttosto che rimanere senza sapere di averci neanche tentato. Con L'amore si odia, disco multiplatino che resterà in classifica per 5 mesi, Noemi e Fiorella vinceranno il Wind Music Award. Vieni qua, io ti volevo bene. ma riparlarne inutile, inutile. Non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, vieni qua. Nel maggio del 2009, Fiorella è impegnata in sala di registrazione. Sta per uscire il suo nuovo album, Ho imparato a sognare. Non c'è molto tempo e sa che non si può concedere distrazioni. È abituata a lavorare tanto, la sua voce non si stanca, né la sua concentrazione viene meno. Chiede questo anche ai suoi collaboratori e quando è in sala di incisione non permette a nessuno di interrompere il suo lavoro. Ma quando arriva una speciale telefonata, i suoi collaboratori capiscono immediatamente che devono fare un'eccezione. Al telefono c'è Laura Pausini, che le chiede aiuto per organizzare un evento ambizioso per le popolazioni colpite dal violento terremoto in Abruzzo. L'idea è quella di mettere insieme cinque madrine, cinque voci femminili d'eccezione e offrire al pubblico una maratona di musica con tantissime artiste italiane sul palco per raccogliere fondi a favore della ricostruzione. Fiorella non sa come fare con l'uscita del disco, la data del concerto è molto vicina, ma non può dire di no. La sera del 21 giugno 2009 lo stadio di San Siro a Milano si riempirà. Il concerto vedrà sul palco 50 cantanti, tutte rigorosamente donne, e sarà trasmesso in diretta da 13 Network. Nell'occasione di Amiche dell'Abruzzo si è sentita una sorellanza. Devo dire che sempre ringrazierò Laura Pausini, che con la sua caparbietà e la sua forza di volontà è riuscita a mettere in piedi qualcosa di unico nel mondo. Nessun altro posto del mondo tante donne si sono riunite per un unico concerto, soprattutto con per quell'iniziativa e per quella finalità. Fiorella è un'artista che con umiltà ha saputo cantare le emozioni di diverse generazioni. Ha iniziato come controfigura, ma è diventata invece protagonista della sua vita e della scena musicale italiana, sempre attenta ai cambiamenti di costume e di abitudini, con uno sguardo rivolto sul sociale. A muso duro, anche lei, non si è accontentata, ma ha saputo trovare la sua unicità andando a scovare le emozioni silenziose che si nascondono nella vita. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa